boys and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo. Un saluto da Roma. E un saluto da Milano. Ecco. Però, quale attenzione, milanese. Tu sei un disastro. Vabbè, ma non sono milanese, tu quasi sei romano. Quanto io fare romano. Esatto. Comunque, attenzione perché siamo spiati, K. È una notizia. Ma dici adesso, cioè durante il nostro colloquio telepatico tra Roma e Milano ci spiano. Certo, anche adesso, ma non solo, sempre, sanno tutto di noi. Ma chi? Loro. Ma loro chi? Quelli delle aziende. Chi? Quelli delle aziende, K, mi senti con sta telepatia, non si capisce. Ehi, non è mica una cosa strana, quelli delle aziende, lo sanno tutti. Prova a mandare un messaggio di posta elettronica dalla tua pagina di webmail in cui scrivi a un amico che vorresti andare a vedere un certo concerto. Vedrai che pochi secondi dopo, sulla destra, tra i banner pubblicitari, apparirà magicamente la pubblicità del CD dell'artista di cui scrivevi nella mail, guarda caso, Quindi sanno tutto di noi. Sì, ma sanno anche tutto dei bambini, quelli che per legge non possono venire censiti senza l'autorizzazione dei genitori. Infatti in America adesso è scoppiato il casino tra Federal Trade Commission, che è una commissione statale federale appunto, e i colossi dell'home entertainment Disney e Playdom. Sembra che piattaforme come, queste che conosceremo benissimo tutti, Pony Stars, Two Moons, Nine Dragons, Age of Lore e My Diva Doll... Mai sentiti, però Diva Doll sembra un sito. No, sono tutte cose per bambini, piattaforme per bambini che estorcono dati a questi bambini e poi usano i dati come nome, età, residenza, indirizzo mail senza il consenso dei genitori. I bambini coinvolti sono più di 1.812.000 solo per Pony Stars, ma ora c'è la multa di 3 milioni di dollari, quindi è tutto a posto. 3 milioni? Sì. Ma come, scusa, per risarcire più di 1 milione di bambini, 3 milioni fa meno di 3 dollari per ogni bambino. Eh beh, però, come paghetta, dai. Io penso che viviamo una regressione. Una regressione culturale, una regressione civile, una regressione morale e anche una regressione politica. Chiedo asilo! Allora, Gildo, allora, ascolta, oggi ci voglio fare il freestyling, eh? Quindi mettimi su una base che voglio partire. Benissimo! Vediamo un po', allora. La 4, ma quella va bene per... Aspetta, qui sono diverse. La facciamola la 3. La 3. La 3. La 3. Base 3. La 4. La 3. La 3 ho detto. Allora vai con la 3 giusta, mi raccomando. Che qui, dai che ho una voglia matta. Madonna che voglia di freestyling. Dai, vai. Dai. Gildo. Quando andiamo tutti in messa, tu non mangi la verdura. Perché tu non hai paura della suora. Gildo. Tu ti mangi i rognoncini che gli dà tua madre Mifia, che io in realtà me la sogno di notte. È tutta unta di rognoncini che mi si avvicina, mi dà il bacino della buonanotte e poi dopo e di colpo mi sveglio e mi trovo in una situazione che... Allora, ma sta base! Riprendi! Attenzione, sei passata alla 4? Volentierissimo, rimetti la base giusta, che qui è andata fuori tutto a catafascio. Vai! Che di colpo mi sveglio? E mi trovo in una situazione e che non capisco nemmeno io. E quindi non so cosa fare. Allora, ma allora, dove è finita la base? Volentierissimo! Ho capito, volentierissimo, ma di sempre la base sbagliata! Oggi c'avevo una voglia matta! Dai! Questa è giusta, la 3. Vai! Sì, Gildo! Dicevamo della mensa? Non ho ancora capito! Come mai quando ti siedi? Non ti mettono mai il vassoio davanti? Cioè, Gildo, ma te la gente ti vede o no? Volentierissimo! Sì, ma ancora la base è andata ancora via! Vabbè, dai, la rifacciamo dopo. Adesso però c'è un rognoncino da darmi? Volentierissimo! Allora dammelo. Lei sta dicendo che è una questione un po' ad asilo Mariuccia, mi pare di capire. È una questione di... Sì, insomma, non è più... Sì. Come... Sì. Vabbè, allora, proviamo il collegamento telepatico. Pronto, K, ci sei, K? Sì, Vabbè, sì, in modo loro. Vabbè, quando torni, so, a Milano. Telepatico, no, per quando, far capire. Quando sì, torni a Milano. Sì, anzi, con un po' di delay. Delay, sì. Delay. Questo è molto divertente. K. Cos'è che vuoi? Proviamo, K. Ci sei? Ma sì, non mi senti. È mezz'ora che parliamo. Okay. Quando torni a Milano? Purtroppo oggi è l'ultimo giorno a Roma. Peccato, eh? Sì. Qui almeno, Drago, non si parla sempre solo di sindaci, di ballottaggi, di voti persi, voti vinti, circoscrizioni, quartieri, case popolari, pattumiera, certo. Il sindaco a Roma è stato eletto già da qualche tempo ed è saldamente in sella il bambino Alemanno, eh? Beh, insomma, saldamente. Ah no? Per rimanere saldo in sella lui ha dovuto mandare a casa tutti gli altri. Cioè, i suoi assessori, insomma. Sì, quando per non dare la colpa al capo si licenziano tutti i dipendenti, è una soluzione che si usa, no? Certo, sì. A Roma beh, è successa una cosa tipo così. Ma di che ti lamenti? Non sei mica romano, no? E allora dai, beh, insomma, tu goditi questa città senza pensare al sindaco. Hai ancora qualche ora il tempo di stare lì nel tepore primaverile di Roma senza dover subire la pubblicità elettorale che qui a Milano sta diventando insostenibile, te lo dico. Sì, però io me la godrei anche. Ma suor Pagliata qua si è messa davanti alla porta, non fa uscire più nessuno perché ha scoperto che mandavano i bambini a comprarmi le sigarette e i grattevinci, capito? Vabbè, ma cappa sempre, tutte le volte ti aspetta fai conoscere. Che mi suona al telefono, aspetta. Mamma, sì. Ciao, ciao. Sì, poi adesso tra poco passo da te. Dammi un'oretta, arrivo. Cappa, sì. Ok. Sì, un'ora, un'oretta, sì, ti giuro, non un minuto di più. Sì. Ciao. Ma scusa, cappa, dai. Cosa c'è? Ma non hai detto a tua madre che sei a Roma e quindi che è impossibile per te essere tra un'ora da lei a Milano? Ma cosa stai dicendo? Sei abituata. No, ma tu non immischiarti sempre, Drago. Su, pensa ad altro. Non c'è la ricreazione adesso? Fai la ricreazione. E ora, bambini, ricreazione. Allora, Gigo, sei pronto? Dai. Bambino Alberto! Ehi, ciao Drago! Ciao, come va? Cosa fai tutto solo? Ma sei tu che sei solo, io sono qua con Gildo. Ah, già. Vabbè, e che cosa state facendo? No, tu a e Gildo? Parte la risatina! No, ma giusto! Ammiccante che non ho capito cosa voleva dire! Bene, cosa fate tu e Comunque, Gildo? Comunque, mi sta aiutando, mi sto esercitandomi nel freestyling. Perché il freestyling non è che lo fai, ma ti devi allenare, no? Per improvvisare. Quindi si prega di non disturbare, d'accordo. Ci siamo capiti? Mm-hmm. Allora Gildo, dai, vai che mettimi la due. La due è già difficile, quindi se poi me la sfori, me la scambi, vai, ecco due, vai, la due. Mi sembra ancora la tre, però tu dici che la due, vai. I bambini dell'asilo stanno facendo casino. Quelli dell'asello stanno facendo casello. Quelli dell'asotto stanno facendo casotto. Quelli dell'asaccio stanno facendo casaccio. Quelli dell'azoto sta facendo cazzotto. E poi non so come andare avanti perché la base è andata fuori pista. Ma Gildo, cazzo. Ma no, è per l'occiometro. Vabbè, bambino Alberto, scusa. Vabbè, allora stavi andando bene, era anche divertente. Appunto. L'asilo, l'asello, l'asotto, non vuol dire niente, però perlomeno c'era una specie di ricerca poetica. Però è peccato che poi tu non sappia come andare avanti dopo quelli dell'azoto stanno facendo cazzotto. Non mettiamo il carro davanti ai buoi, Allora, qui non è che io non sapevo più come andare avanti. No. È che io improvviso tutto sulla base. Sì. Se la base viene sbagliata, Gildo? Ma Gildo non c'è. Ma continui. Se la base viene sbagliata? Per forza poi perdo l'ispirazione. Dai, facciamo allora, un altro. Il testo 2 è schiacciato? Volentierissimo! Ma l'hai schiacciato? No! Non è che tu dici volentierissimo, poi mi prendi. Poi lo devi fare veramente? Dai. Vai col 2. Tieni la costante! Gildo! Non sai mettere le basi! Così io poi non riesco a finire le mie frasi! Gildo! Tu sarai anche un amico! Ma non sai usare il dito? E comprometti il risultato! Gildo! Anzi, sai cosa ti dico? Che secondo me, tu sei solo fortunato ad avere una mamma come la signora Mirfia. Perché se avessi una mamma come la mia, a quest'ora saresti in un campo di lavoro in Corea del Nord! E intanto... Pol Pot! Ti manderò io da Pol Pot, che hai sbagliato ancora la base! A parte che Pol Pot era in Cambogia, non in Corea! Preferisci la Cambogia? Cambogia! E io ti consiglio la Cambogia. Chiedo asilo! Ah, è finita questa settimana romana, Drago. Sì, sì, sì. Io volevo però, prima di andarmene, tornare, ahimè, a Milano, ringraziare le suore qui dell'asilo di Roma, che sono state gentilissime e affettuose, forse tranne Suor Pagliata, che è un po' Insomma, mi sa che ha qualche relazione di parentela con Suor Dentona. Comunque, grazie a Suor Valerio, a Suor Alessandro e a Suora Gloria. Va bene, invece qui da Milano salutiamo e ringraziamo Suor Pietro, Suor Claudia e Suor Margherita, e anche Suor Guido e Suor Alberto, che hanno invece collaborato da Barlumen. Una risentirci a tutti. Ci potete scrivere a chiedoasilo@radio24.it. ricordate, potete anche partecipare al quiz per vincere l'MP3 del bambino Alberto di Non Correre Papà. Fatelo in fretta, fatelo subito, ma soprattutto fatelo, perché sennò